A Rock FM sono le 7:30 minuti primi. Venghi o siori venghi, no, c'è pane, burro, rock and roll. Puntata numero 100 dall'inizio delle nostre trasmissioni, Non che poi domani, quando dico che è la 23, qualcuno mi dice non è 100. Io, sì, è 100 da quando abbiamo iniziato tutto, però è abbastanza semplice il meccanismo. 335-1-0-0-7-7-7-7 per voi che ascoltate in diretta, e invece ariel@radiorockfm.com per i commenti di chi invece ci sta ascoltando in streaming nel corso poi della giornata. Qua è ancora dura per noi amici, un'ora e mezza di pane, burro e rock and roll con Spadino, che ha idee. Spadino ha pronta la canzone in versione italiana dei Beatles, l'ultima che abbiamo fatto, Sottomarino Giallo, in attesa di quella nuova di questa settimana che stiamo già preparando. Ci scappa che nella prossima mezz'ora ci ascoltiamo Sottomarino Giallo. Abbiamo, attenzione, Carlo il tabaccaio, colui che si occupa del lotto, che è disperato, scrive una mail dove dice non ce la posso fare, chiede aiuto agli altri radioascoltatori, quindi veniteci incontro, visto che questa tripletta, questa terzina, questo terno, come volete chiamarlo voi, prima o poi lo si deve azzeccare. Se avete qualche aneddoto, qualche idea per qualche buon numero da giocare, fatecelo sapere, più siamo meglio è. Poi se si vince, insomma, si divide come al solito. Pane, burro, rock and roll è garanzia di democraticità anche nel dividere i soldi. Anche noi qui gli stipendi li dividiamo tutti uguali. I am the god of hellfire. Lui è il dio del fuoco dell'inferno e vi dà fire. Fuoco. Fire, Arthur Brown, nella diretta di Pane, Burro, Rock and Roll. Allora, sia ben chiaro, capiamoci da subito, non è che essendoci un clima di festa qui in redazione scattano i chinotti, no? Le briochine, e mica sarete lì a pensare che, visto che appunto c'è un po' clima di festa, noi abbandoniamo il compito di questa trasmissione, la meta di questa trasmissione, ovvero lo stare vicino, l'essere finalmente, il trasformare finalmente Rock FM in radio di servizio, che è comunque e resterà sempre l'obiettivo primario di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Oh, non è che là fuori sì, sembra che siamo qui a fare gli stupidi. Lo so che a un primo ascolto così superficiale uno possa pensare così, e ve lo concedo, va bene, non ci offendiamo, ma ricordatevelo, siamo prima di tutto una radio di servizio. È qualche giorno che dimentichiamo la puntata della... Sì, ragazzi, io ho troppo la febbre, ufficiale, non ce la faccio. No, ma tengo duro, aspetta, riprendo. È un po' di giorni che dimentichiamo la rubrica del ritardatario ritardato. Eccolo, c'ho le scalmane di caldo io. E perché non riprenderla oggi? Per tutti coloro che in questo momento guardano l'orologio, strabuzzano gli occhietti e dicono: mannaggia la miseria, sono le 7.36, sono già in ritardo. Tranquilli, abbiamo una buona scusa per voi. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, io non ho parole anche stamattina per esternarle, come si dice, i sensi del mio rammarico, delle mie scuse. In effetti sono troppo in ritardo, ma c'è una spiegazione e lei mi deve dare l'opportunità di comunicargliela, di rivelargliela, perché è la verità. Io stamattina stavo venendo in ufficio di buon'ora con un amico che mi aiutava appunto a, facendo jogging in qualche modo, a restare in forma, e avevo messo anche il vestito buono, io lo seguivo da lontano, e non ci crederà, ma a un certo punto mi è capitato di incontrare quel pugile americano, sa, quello un po' violento, sì, proprio lui, Tyson, proprio, guardi la fatalità, quando si dice il destino, proprio quando raccontavo quella barzelletta del negro sulla banchina. Il ritardatario ritardato, non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Ma direttore, scusi, adesso che ci penso, le ho mai raccontata quella di Ray Charles e Stevie Wonder che non si possono vedere? E beh, che c'è? So tell me, why can't this be love? You sentire nessuno avrebbe mai immaginato il pasticcio nel quale ci saremmo cacciati chiedendovi di spedirci delle cartoline e facendoci venire la brutta idea di volervi salutare tutti, uno per uno. Ma ci sembra giusto, ci sembra doveroso, perché voi vi siete impegnati a salvare la cartolina postale dallo strapotere degli SMS e dei computer. A proposito di da farsi, io partirei subito con un bel viaggio nelle montagne del mondo, partendo... Perché è arrivata una cartolina da... Guarda, facciamo un reparto montagne, questa è arrivata dalle Dolomiti, dal Passo Pordoi. Paesaggi dolomitici. C'era mai stato lei sul Passo Pordoi? Ma ci sono passato, devo dire che ci sono passato. Ha fatto qualche concerto. Pittoresco, pittoresco. Invece che il solito saluti e baci dal Pordoi, sentite qui che tristezza di rima, spero lei apprezzerà. Oi oi oi, gli ascoltatori di Rock FM, fin su il cima al Pordoi. Bravissima, bravissima. Scrive un amico, mi spiace per te, con Filippo. Fosse. Filippo e la sua piccola bambina, la figlia Vittoria. Ah, c'era una Vittoria. Salviamo le cartoline postali, ringraziamo questa dalle Dolomiti e passiamo al Bormio. Descriva subito. Una cartolina allungata, esatto. Quindi più lunga, estesa per l'orizzontale, un non panorama, il verticale. Panorama con un panorama con Bormio e tante mucche in primo piano, mucche sempre, bellissime. Fanno sempre molto montagna. Molto montagna, fanno sempre molto natura, perché la mucca è un animale benché mastodontico, mite, soave, positivo. La cartolina è molto grande, in realtà la cartolina che arriva dalla Valtellina, dall'Alta Valtellina, nel retro è abbastanza scarna. Vacanza finita, le fanciulle tornano in città, speriamo. Questo è il messaggio. Vediamo le firme: Mary, Clara, Sandro e Fritz. Ma chissà questo Fritz aggiunto. E soprattutto chissà se queste fanciulle tornano in città, cosa vorrà dire? Sicuramente vorrà dire qualcos'altro. Ma forse messaggi sottesi, tanti piani di messaggio sotto questa cartolina. Le mucche, tra l'altro, se la passano beatamente ruminando dell'erba certo. Verde, verdissima sul prato. È una cartolina positiva. Direi un paesaggio positivo. Guardi che link fenomenale. Dall'Alta Valtellina passiamo alla Valtellina turistica Aprica, 1200 metri sopra il mare. Aprica? Non saprei. Come al solito, non sappiamo dove mettere l'accento. Ci sono, direi, quattro immagini di questa ridente città con tanto di stelle alpine. Immancabili per una Edelweiss, buona... un applauso all'Edelweiss. E lo facciamo pure l'immancabile stella alpina. Andiamo per la montagna. Direi Riccardo, può essere, sostengo la vostra causa a favore della cartolina postale. Grazie Riccardo, grazie a tutti, vi saluteremo ognuno. Uno per uno, non dubitate, arriverà anche il vostro turno. If you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. When it comes to being lucky, she's cursed. Tears that I've cried, and I'm sure gonna give you a try. And if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try. I'm sure gonna give you a try. Cause if you want, I'll try to love again. Maybe I'll try to love again, but I know. Woo! The first cut is the deepest, e lo sa bene il Rocco Rod Stewart, che spesso e volentieri ce la canticchia nelle mattine di Pane e Burro e Rock and Roll, e lo ha fatto anche stamane. Rocco, nel senso che ha la voce roca, senza offesa, Rod è uno di quelli che se la piglia sempre male, sempre l'Ariele, Spadino, Fricantoni e tutti voi in questa puntata dal clima festaiolo, festante, visto che dall'inizio del marchio Pane, Burro, Rock and Roll siamo alla puntata numero 100. Un saluto a Sere da Firenze, fa gli auguri, propone Coca-Cola con aspirina per festeggiare e chiede soprattutto una strombazzata per ritrovare Macchia che è scappato. No, Sere, facci sapere. Macchia, se ci stai ascoltando. Però come si fa? È dura, eh. Oh, Sere, mi raccomando. Tienici aggiornate. 100 puntate, ecco perché siete così suonati. Un altro amico di Firenze. Un saluto da Tino, il gruppo d'ascolto tassisti. Tino si è impegnato a spargere il verbo di Pane, Burro e Rock and Roll. Ha accettato di partecipare anche lui alla missione in codice Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà, e giorno per giorno convince gli avventori del suo taxi ad ascoltare Pane, Burro, Rock and Roll. Oggi ci fa sapere che anche i fisioterapisti sono dei nostri, e salutiamo Luca. In un post-scriptum avvisa che anche a Parco Solari ci sono le persone che fanno jogging. Propone un gemellaggio con quelli di Piazza della Repubblica. Potrebbe, così idealmente l'abbiamo già fatto. Auguri di altre 100 puntate, oggi mi sono alzato prima apposta per sentirvi. Un saluto dalla città del Chinotto, il buon Marco con la K. Un saluto anche a Ravenna, ad Orso, che voleva proporre per le 100 puntate di mettere Tears of the Dragon di Bruce, visto che voi siete come draghi che con la vostra musica volate sopra di noi. Che poeti. Intanto avviso il nostro tabaccaio disperato, che quest'oggi non gli venivano in mente i numeri. Sappi che pochi minuti fa ho fatto l'appello ai radioascoltatori, consigliatecene voi. Nessuno ha consigliato dei numeri, quindi Carlo, devi camminare sulle tue gambe. Sei da solo al mondo, renditene conto e tira avanti. Allora, faccio tutte le mattine un'ora di macchina e mi fate alzare più volentieri, vi scriverò sempre, ok? Matteo il giardiniere. Salutoni. Ultimo, sono 6 mesi che vi ascolto e adesso mi sento a casa anche in macchina. Oh, che tenerezza. Siete troppo forti. Ho visto le vostre foto sul sito. Ha, ha, ha, ha, ha. Che senso? Risata? Che facciamo ridere? Scusa. Vabbè, www.radiorockfm.com, ci sono anche le nostre foto sul sito. A proposito di facce, a proposito di perderci la faccia, una volta a settimana vi proponiamo un brano dei Beatles rivisitato in chiave italiana. La rubrica si potrebbe chiamare Cosa sarebbe successo se i Beatles fossero nati a Cassano Magnago piuttosto che a Liverpool. Qualche giorno fa, giovedì se non ricordo male, vi avevamo proposto la versione di Yellow Submarine trasformata in Sottomarino Giallo. Quest'oggi Spadino alla replica. Siete pronti? È andata, la mettiamo. Posti di rivista tutti in coperta. Uh-huh. dove sono nato viveva un uomo che ha navigato e lui ci parlò della sua vita nella terra del sottomarino. Così noi ci siamo imbarcati verso il sole fino a che abbiamo trovato il mare verde e poi abbiamo vissuto al di sotto delle onde in un sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. I nostri amici sono tutti a bordo, molti di più di loro vivono lì nella porta accanto e la banda comincia a suonare dentro il nostro sottomarino giallo. Come noi viviamo agiatamente, ognuno di noi ha tutto ciò di cui ha bisogno, cielo blu e mare verde nel nostro sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Vi era stata proposta in diretta giovedì e Spadia, è colpa di Spadino comunque, il nostro regista che ci tiene a riproporre poi la replica, Sottomarino Giallo, Yellow Submarine in versione italiana. Un'amica commentava qualche minuto fa: carissimi, l'altro giorno mi sono ritrovata in macchina a cantare Ehi Giuditta e Sottomarino Giallo. Mi dispiace, cioè no, ti siamo vicini, anche a me su Ehi Giuditta è capitato anche a me. 100 puntate e fiera di averle ascoltate tutte. Brava, brava, grazie mille. Allora, a proposito del centenario, è veramente troppo, però visto che siamo una trasmissione veramente troppo, secondo me è giusto usarlo. Nella ripresa di Pane, Burro e Rock'n'Roll mai abbiamo riproposto una rubrica che invece tanto ci piaceva nella prima stagione di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Se vi mando la base, o meglio se Spadino mi fa partire la base, riconoscete subito di che si tratta. Ve la ricordate? Zoom zoom zoom zoom zoom. C'ho un motivetto in testa, come l'amica, no? Che canta i Giuditta. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa. Capita spesso e volentieri, capitava spesso e volentieri, e perché no? Facciamocelo capitare anche quest'oggi. Un brano che funzionò nella scorsa stagione, incastrandosi nel cervello dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici per portare un po' di positività. Si chiamano Queen. Il messaggio è uno: non fermatevi. O meglio, nessuno mi può fermare adesso. Adesso mi rimane in testa fino a stasera e sono Mazzi. Ho detto Mazzi, con la M. Andiamo via! Tonight I'm gonna have myself.